però senz'altro qualcosa bruciato gli avrà mangiati. Vabbè, non lo so, perché ultimamente non stava pagando manche i dipendenti, c'era mia nipote che lavorava lì e ti dava a rate 500, 100 euro, non finiva mai di pagarmi tutto lo stipendio. Alla fine se n'è andata, adesso sta lavorando come impiegata e si ne ha fottuto. Comunque, dov'è che si può trovare presso una bella baghetta appena sfornata, bella calda? Allora, se ne fanno ancora in via Pascoli dove c'era la Comec lì, ma non lo so se Carrefour le fa, però dove c'era la Comec lì le facevano, io le compravo lì. Sei chiuso quel locale, non me. Chiuso è. E a una lì, io già. Aspettami, che anche Emanuele già lo sa. Allora, dove c'era la Conad City, quindi adesso in via, che era tutto l'asfalto nuovo, hanno fatto manuale, via Cristoforo Colombo, lì c'è sul mercato, bisogna dare peso per non sforna, è la mortella, e tu dico che ne sono. Quindi la lui l'abbiamo fatto venire. Eia, Emanuele, vero? LD, dov'è LD? Scusa, non faccio prima andare in via Cristoforo Colombo, che è più vicino a me. Vedi, per Marco, perché non andare più lontano? Poi, se io vado più lontano, mi rimasta che sono fantasia, la famiglia. Dove c'è Monica? Perché anche le baguette vengono lì. Ma non le fa nel momento, dai. Cade con la mortadella, mamma mia, 2-3 me mangiamo sempre. Capito, Manuè, lì magari gliele portano, non le fa nel momento. Buone sono quando le sfornano, che sono calde. Ti date le mani, gli bruciano ancora. Comunque io voglio organizzare una bella mattina presto, anche alle 8, usciamo, chi ci vuole stare, Natalino, Manuele, Gianni, comprare le baguette e la mortadella, fresca, che bella, calda, moghetta, oh, in bella. Comunque dice che sono le baguette le fanno con la farina di grillo. Allora non li mangio più. Io la mangio perché ancora non l'hanno fatta con la farina di grillo, non ti preoccupare. Pettina. Smontato. Natalino. Vai, farina di grillo. E andiamo e ci compriamo le baguette e ce le mangiamo alla faccia di Gianni. Che intanto lui deve stare in astinenza. Per lui è farina di grillo e rimane, non se ne mangia, già le mangiamo noi. Devo stare a dieta. Tu devi stare a dieta. Io sono sempre a dieta, io prima non li mangio, mangio mezzo panino smontato alla Monica, quando lo mangio a pranzo, un'insalata, una fettina, una frutta, anche due dai, e due arancia mi mangio. Ma io lo stesso, la baghetta la apro tutta quanta, tolgo la Monica e poi ci sbatto un'età e mezzo di mortadella e va bene. No, io non tolgo nulla, io la mangio così, bella croccante, bella, buona. No, io la Monica la tolgo lo stesso al pane. E anche io la tolgo, ma nella baguette già ci sta bene, è poca. E magari mai fame che ti piace per profumo anche un frisetta. Alla voi fai bucani da Gianni. Oh, mangia tutto. Oh, chi su si la sbrava, più. Capri la bocca, brutto dallo spirito. Intanto mi ha fatto venire la gara, ma andate a migliorare vita, mi ho ispirato. Avanti, ma non te ne immagini questi mangiuri. Guarda, allora, se vuoi te lo faccio, ti faccio anche il filmino. Dopo vado dentro, io ho il congelatore, dei quadratini, ne avevo preso un chilo. Li faccio scongelare con calma, poi le metto il microonde, bello caldo, ci metto il salamino cacciatore e un po' di formaggio di grana padano, a pezzi, che bello. Io invece c'è formaggio che si scioglie a casa, me lo faccio arrosto e me lo mangio in mezzo a rubare. Natali, tu cosa ti fai? Adesso mi faccio un bel toast alla faccia di Gianni. E così ti impari, Gianni. È una pera, perché Natale non può comare. Sentito la etunia? Sì, questo perché lo tratti bene, visto là, è pure da calci. Eia. Comunque, a parte gli scherzi, la baguette con la mortadella si sposano tanto bene, non poco, non bene. Se poi lo fai a casa, che puoi farlo a casa, ci metti anche il pomodoro e la maionese, è ancora più buono. Quando andare a casa mia è già fredda la baguette, sta zitto che quando recuperavo due io, ne arrivi solo uno in casa, anche se così tanti. Comunque, a parte scherzi, no, ho detto veramente, sono sul serio. Se vogliamo organizzare una bella maghettata con la mortadella calda calda. Mi stai mandando sulla cattiva strada, Tony. Io mi astengo. No, tu gli scrivi anche tu il macchetto. Ci lasciamo fare questo capo di visita, no? Già va, voglio andare. Domani, che c'è un Marco lunedì, ma c'è pari vicino. Vabbè, lunedì, vabbè, la devi fare tanto domani è sabato, tutto il giorno a smantellare quella che hai mangiato, poi c'è la domenica, voglia già, dai. La domenica da voi c'è roba rosta, c'è gente a casa, un casino. Quello niente. Va bene, Natalia, andiamo noi due, va bene. E adesso si va a ben fare la domenica, non hai compreso? Chi non ne vuole mangiare pagare, se no aumenta ancora di più la storia. E allora, Manuele, ci vieni tu domani mattina a mangiare la macchetta calda a casa con la bella mortadella? E te, domani ti andrà a patata, a prendere le patate, devo andare, bubu. A prendere i contelli. Ascolta, a te, dato che vale ciappetti calde, ti metto la mortadella. Sì, roba da chiudi. Oh, mi viene spontaneo queste cose a me già. No, non ho sentito però. Ho detto, dato che c'ha le ciappette calde, li mettiamo le fette molto dentro. La patata, guarda. Ma vieni con noi, vieni a mangiare la mortadella con la baghetta calda calda. Cosa c'è, qualche fiera patata di patatesi? Cosa c'è, qualche mostra di patatesi? Mi hanno fatto vedere su internet quello che le fa le patatesi. Ma se ne fa anche con i brillanti, cosa non vedi soldi, non vedi milioni. Le fa con i brillanti, brillanti veri, le fa in oro, in diverse maniere. Quelle lì ha detto che però non sono quelle proprio originali, sono fatte da lui, però quelle originali sono con manico proprio di corno di burro, non so, di muflone, di che cos'è. Rizzo è quello che fa bene le patatesi. Ho detto, Fogarizzo le fa le patatesi. Arizzo non è il paese delle castagne. No, si chiama Fogarizzo, quello di patata che le fa le patatesi. No, questo è un altro, non si chiamava così. No, c'è un nome normale. Quello normale è conosciuto tipo Secchio, roba così. E c'ha proprio il museo, c'ha laboratorio e il museo dove le espone. C'ha una patatese, si la vede carta in mano, enorme, aperta, dentro un cofanetto in legno e all'interno è venuto rosso. Guarda che il più famoso è Fogarizzo. Magari è muscio, lui si è già reso. Oh, scusate, dai, 19:48, signori, mille, mi guardo il telegiornale e mi preparo già il mio piccolo cenuzzo. Va bene, comunque, oh, Natalia, dammi conferma, domani mattina? No, che devo fare cosa, se no già sarei venuto. Ma già passo a che dì e mi rabbiglia più, la cosa era, come si chiama, la paghetta, e quella mortadella mi raccolta. Vabbè, dai, lo organizziamo qualche altro giorno, così già ne si fa per le sue cose. Va bene, signori Billy, ciao Manuele, ciao Natalino, ciao Gianni, ciao Vittorio, in ascolto. State bene, guariti da parte mia. Ciao, ciao. Ciao, Tony, buona serata, dai, buona continuazione. Avanti, Ivano. Ciao, Tony, alle prossime, anch'io chiudo, saluto Manuele e Gianni. Cosa avevi su, buona sera, telefonami, si c'è il passurutto. Ciao. Natalia, in FM, hai provato a vedere di studio? No, non ho provato, con chi provavo? Vabbè, intanto tutti sono in AM, cosa sai in chi vi ha tirato la longa? Già lo so che non disturbo in FM. Lo proponiamo, stamattina stavo modulando in FM con Carlo, con Gavino, una telefonata. Infatti, meglio in FM. Infatti a Gavino glielo stavo dicendo, se gli altri sono d'accordo ce ne andiamo in FM e va molto meglio. Chiudi lo squash, gli altri ti apri lo squash, e sicuro non te lo apre. Sembra una telefonata, QRM non si intende niente. Sembra in VHF, è vero, sembra una telefonata. Si potesse fare una M, una cosa del genere. Ehi, vabbè. Allora, ci sentiamo, che se no quello mi telefona, sono già le 7, le 8 meno un quarto, che mi guardo anche io il telegiornale, se no chi tu mi telefoneggi. Miao. Ciao, ciao Natali, ci sentiamo, dai, buonanotte. Emanuele, ti trattieni o vai via? Ehi, pensaci che magari c'è formaggio buono a patata, che ho fatto qualche forma di formaggio, gemmo buono. Vedi, prima ci stavano vietando il formaggio macio, adesso mettono casse rigavandetti a mania e farina di grillo, ma te li mangi. E all'inizio pensavo che fossero affitti quando l'ho letto. E invece no, è vero, lo stanno proponendo proprio, anzi l'hanno deliberata addirittura, lo possono già vendere nei supermercati, infatti occhio alle etichette, se no ci mangiamo la farina di grillo, e io non li mangio, se mi sa cosa mangio, solo carne, verdure e frutta, bocca, che schifo, addirittura su internet ho visto questo africano che si stava mangiando gli scorpioni vivi, li masticava, che schifo, no, non fanno. No, io vado solo a mangiare il sushi, e quello che mangio lo so perché si vede, mangio sushi, mi piace il sushi, certe cose non le mangio, non mangio pesce crudo, ma tutto il resto, l'altra volta abbiamo preso anche il pesce crudo, c'era l'astice cruda tagliata a metà, l'ostrica, le cozze crude, qualche cosa l'ho mangiata, però c'era il salmone, non l'ho toccato. Pare che mangiare i ciucci, no? I ciucci, io mangio sushi. Ma che avevo fatto uno scherzo a uno, no? Perché scherzo? Abbiamo fatto il mangiare cinese a casa. Avevamo cucinato di ciucci, tutti di giapponi. Sto comprando la testa. E mi sono detto, io ciucci non ha più cucinato ora. Noi stavamo ridendo, ho fatto uno scherzo un po' di anni fa. Ma il sushi è giapponese, non è cinese, è giapponese. Io nel ristorante cinese non c'ero mai andato e non mi ispirava a andarci. Poi questa greffa tra amici e amiche, io andiamo tutti quanti in greffa e per non fare l'osso sono andato anch'io. E c'era tutto sul service. Abbiamo preso la roba da mangiare, io ho visto queste coscettine fritte, ho mangiato queste coscettine ed erano buone, ma non so cosa ci ho mangiato, se ci ho mangiato cosci di Zurigo, cosa ci ho mangiato, però erano buone. Poi ho preso l'astice e riso con delle salse, delle cose che c'erano in mezzo, era buono. Però poi sono stato una settimana sempre attaccato a un gomito. È roba che va via con il cubo, non vai mangiare, mamma. Io preferisco mangiarmi una bella pasta di olio che mangiare i sabucarini. Hai ragione. Aspettami, vabbè, oggi abbiamo preso una pizza romani, tagliatelle fresche, sai che li faccio con sugo carne macinata, li faccio con a ragù, le faccio con arezzo e mezzo un po' di formaggio sardo. E gli altri già sono buoni, ma io sono adattato che non mangio pasta, ho mangiato pasta al forno domenica e poi non ne ho più mangiato di prima. Gli altri sono buone, capo, quanto quelle poche qua sassa di un maloccale. Ha fatto domenica la pasta al forno, minimo era 10 cm, ne hanno fatto pochi ristratti, bella grossa, cata che buona, bella condita, cazzo, ma buona veramente. Sì, la faccio io così, io uso tutta roba fresca, non so com'è, lì, io uso le lasagne belle, fresche, capo, pure io la faccio altra, ma esce una bomba, esce una rete col prosciutto. minuto e mezzo. Uia! E deve fare anche la besciamella lì, non è cotta la besciamella. E anche io mi sono imparato a farla. Fa tutto lì. Esce un bel buono, ma bella condita lì, non asciutta come lo mangio da certe parti che lo mi piace. Questa qua è bella condita. Poi dai, io vi saluto, che me ne sto andando, sto andando a portare il cane al tuo. Sei entrato troppo tardi, come non entri presto? Perché ho portato il bambino a fare l'ecografia. Non me l'ha fatta nessuno, disgraziate. Disculpa, cosa? Allora ho detto, ascolta, io pago, faccio fare lo stesso, a me non interessa, mi dà possibilità. E gliel'ho fatta fare lì, mi chiamo nel sole, l'ho fatta fare, mi hanno fatta, sono contento, almeno un pubblico. Almeno un pubblico gliel'abbiamo fatta. Perché questa ecografia? Alle anche, perché si fa, i tre mesi. Ah sì, per vedere se ci vuole il doppio panno. Aspetta, chi era? A Manuela le avevamo messo il doppio panno perché per tenerle in linea, capito? Le avevamo fatto mettere il doppio panno. Capa. Cosa è successo, sa? No, le avevamo chiesto per i tre mesi, mi chiedono sempre. Sì, hai ragione, lo fanno questi controlli qua da piccolini, mi ero anche scordato, troppi anni sono passati. Papà, cosa c'è a fare? Devo fare il latte. Arrivo, dai, vedo da mangiare al pupo. Vai che lo sta calmando, Sara. Tocchia, ci sentiamo, scusate. No, sto chiedendo anche a te, ciao, ci sentiamo, un bacio a pupo. Ciao Manuele, ci sentiamo, ciao anche a tutti gli ascoltatori. Ciao Manuele, ce la risentiamo, scusami, adesso vado a mangiare a pupo.